Friuli nel mondo, 197esima trasmissione dedicata agli emigrati. Cari amici, anche oggi, come nella scorsa trasmissione, desideriamo proporvi di ascoltare una passerella musicale costituita da alcune canzoni di autori friulani. Si tratta di composizioni recenti, che tuttavia rimangono legate, pur nella loro veste moderna, alla tradizione melodica del Friuli. Friulani, oltre agli autori delle musiche e dei testi, sono anche gli esecutori, accompagnati dall'orchestra diretta dal maestro Virginio Feruglio. Ascoltiamo per prima Annalisa Viel in Penis d'Amor di Scozziero Cimiotti. Ragazza friulana di Romano Donato sarà cantata da Adriano Degano. Sulla mia strada ho incontrato un amore e una ragazza friulana più bella del sole, del sole. E io sono pazzo, pazzo di lei, ragazza friulana che sempre sorridi quando, quando mi vedi passare accanto a te. Ragazza friulana, da tempo ti penso, devi, devi sapere che io amo te. Dammi la mano e andiamo a ballare, sapessi che gioia ballare insieme a te. Tu sei la più bella ragazza friulana, vieni, vieni amore, e resta accanto a me. Ragazza friulana che sempre sorridi quando, quando mi vedi passare accanto a te. Ragazza friulana, da tempo ti penso, devi, devi sapere che io amo te. Gioia ballare insieme a te, tu sei la più bella ragazza friulana, vieni, vieni amore, e resta accanto a me, e resta accanto a me, e resta accanto a me. Ed ora Teresa Scala in O hai vedut colane stele di Secchiutti e Basaldella. Sempre Il programma si conclude con un motivo di Angelo Peloi, Nemmeno arrivederci, canta Beppino Lodolo. Senza nemmeno dir una parola, cosa costava dir che ti dispiace un po', che è stato bello ma finito è già per te, mandartene così senza sentirti dire nemmeno arrivederci. M'hai fatto male, ma passerà anche a me, stai pure certa, non vale la pena, no, che un tipo come te rimanga nel mio cuore. Ora tu puoi uscire, però ti giuro che io spero solamente che un giorno come un altro succeda anche per te quel che è accaduto a me, e vada via così, così senza parlare, senza nemmeno dir, neppure arrivederci come a me. Non vale la pena, no, che un tipo come te rimanga nel mio cuore. Ora tu puoi uscire, però ti giuro che io spero solamente che un giorno come un altro succeda anche per te quel che è accaduto a me, e vada via così, così senza parlare, senza nemmeno dir, neppure arrivederci come a me, come a me. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo.